Io dico però, sto dicendo, lasciamo lavorare la Procura di Palermo. Invece, proprio in questo momento, dopo che nel 97 si discute di che uso si devono fare delle volte in cui il Capo dello Stato si trova a essere intercettato, non lui, ma la persona terza che lo telefona, bene, dal 97 che c'è questo problema, ha avuto 7 anni per chiedere con un messaggio alle Camere. Io poi le farò una proposta concreta tramite lei a come si può risolvere la situazione, a mio avviso, perché bisogna superare questa situazione di stallo. E me la faccia subito, la faccia subito. No, però voglio che i cittadini sappiano che noi ci troviamo in un fatto così delicato. Proprio in questo fatto va a fare il conflitto di attribuzione. Aveva 1000 altre occasioni per farli in questi 7 anni. Ci sono state altre telefonate intercettate in cui si sente la sua voce mentre sono state intercettate altre persone. Proprio adesso è su un fatto così delicato che riguarda una trattativa Stato-mafia, afferma nel conflitto di attribuzione, mica afferma una cosa niente, nel ricorso per conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale accusa la Procura della Repubblica di aver fatto un atto illegale, addirittura di aver commesso. Ma secondo lei perché l'ha fatto proprio in questo caso? Questo che lascia dei dubbi pericolosi in uno Stato democratico, in uno Stato di diritto. La Procura della Repubblica ha già detto che non c'è niente di rilevante per quanto riguarda l'espressione riferita dal Capo dello Stato, quindi non ha nulla sul piano tecnico giuridico da temere. Probabilmente si sarà lasciato scappare qualche parolaccia di troppo nei confronti dei magistrati, e questo detto dal capo dei magistrati, perché il presidente del CSM non appare opportuno, quindi lo avrà fatto per delle ragioni sue personali. Perché lei è sicuro di questo? Cioè, secondo lei Napolitano ha insultato, avrà detto qualche parolaccia sulla... Ma io non posso sapere cosa ha detto. Resta il fatto però che in questo momento, con quel provvedimento, oggettivamente, al di là della sua intenzione o meno, i magistrati della Procura di Palermo si ritrovano ad essere delegittimati nelle loro azioni.